conoscevo ed era buia la vita passata lontano dal tuo amore. Finché sulla mia strada t'ho incontrata e una luce infinita è entrata nel mio cuore. Per una volta che ho udito la tua voce, che ho stretto la tua mano, non so scordarti più. Non te ne andare, lasciami il tuo sorriso, lascia che questo giorno finisca accanto a te. Il velo della notte lentamente si schiude, le stelle si spengono lassù. E nasce sulla terra un nuovo giorno, ma il sole non brilla se non ci sei più tu. Lascia che questo giorno finisca accanto a te.